Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan. Un radiogiornale che legge però le notizie attraverso una lente molto speciale. Cerchiamo di rappresentare anche criticamente il modo in cui la società umana si relaziona alle altre specie animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 823, parleremo dei macachi di Ferrara, parleremo dell'aviaria e delle sue vittime, che in realtà sono vittime degli allevamenti. Parleremo di Agripunk, del rifugio Agripunk, e del Crick, un festival di fumetto antispecista. Parleremo anche di cani guida e ne parleremo in modo decisamente eretico, attraverso la voce dei Troglodita Tribe. Non mancherà una ricetta vegana a tema firmata Gabriele Palloni, mentre il montaggio musicale è curato da Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriosito. Nel blog dell'associazione LEAL apprendiamo che è ancora aperto il caso dei macachi usati e maltrattati e uccisi dall'Università di Ferrara. È noto che gli studi condotti sui macachi servono principalmente a produrre pubblicazioni scientifiche in campo neurofisiologico destinate a riviste internazionali e a rafforzare la posizione accademica dei ricercatori coinvolti. Scrive questo la LEAL nel suo blog. Ma questa logica che premia la quantità di articoli più che l'innovazione metodologica alimenta un sistema dove la sperimentazione animale diventa un meccanismo di reputazione e di finanziamento, non solo un presunto strumento di progresso. Oggi la scienza dispone di strumenti più evoluti e umani, come organoidi, biotessuti, modelli su chip, che possono sostituire gran parte della sperimentazione animale. Continuare a ignorarli per inerzia o convenienza non è solo un errore etico, ma anche una miopia scientifica ed economica. La vicenda dei macachi richiama l'attenzione sull'importanza di conciliare ricerca scientifica e rispetto per il benessere animale, ricordando che l'uso dei primati non umani è regolamentato da normative europee e italiane, che ne consentono l'impiego soltanto in casi estremi. Ma per restare nella cronaca, è stata notificata alle parti offese, in questo caso le associazioni che hanno sporto denuncia, tra cui LEAL, la LEIDA e l'OIPA, la chiusura delle indagini della Procura di Ferrara per il caso dei macachi detenuti dall'università. Il professor Luciano Fadiga, ordinario di fisiologia umana, la rettrice Laura Ramacciotti, da un mese circa presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, e il responsabile del benessere animale, Ludovico Scenna. Sono tutti e tre indagati in concorso per l'uccisione del macaco Orazio, sottoposto a eutanasia senza rispettare il protocollo indicato, che prescriveva l'iniziale sedazione profonda, provocando a questo macaco dunque un'inutile sofferenza. Ancora viene contestato il delitto di maltrattamento di altri macachi di nome Clarabella, Archimede, Eddie, Cleopatra e Cesare, detenuti dall'università, secondo l'accusa, in assenza di un programma di sperimentazione scientifica previamente autorizzato e in condizioni incompatibili con la loro natura. Gli animali sarebbero stati sottoposti a comportamenti o fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, in particolare costringendoli a dormire e deambulare su un generico graticcio di metallo in uno spazio inidoneo alla semplice deambulazione, in gabbie con ambiente insufficientemente arricchito, senza periodici controlli sanitari, in relativo isolamento e comunque detenendoli in modo inumano. I macachi, per quanto noto, sono ospitati presso un'associazione in Spagna adesso, ma nonostante molteplici richieste di aggiornamenti, di loro non si è avuto più alcun riscontro. Queste sono le condizioni in cui vengono svolte le cosiddette ricerche scientifiche sul modello animale, su corpi di animali. animali sensibili, senzienti, e per quanto ci riguarda non è importante il fatto che la scienza possa o non possa compiere dei progressi, perché è un prezzo comunque troppo alto da pagare anche per compiere dei progressi. Ma in questo caso queste associazioni stanno dichiarando, stanno sostenendo, come una parte del mondo scientifico da tempo sostiene, che il modello animale e le ricerche scientifiche sugli animali, per poi essere riprodotta sul modello umano, quindi su corpi di animali umani, non è nemmeno efficace per le differenze tra queste due fisiologie. Quindi diciamo, noi ci schieriamo con chi da un punto di vista prettamente etico rifiuta in toto la ricerca scientifica sugli animali. Ma anche all'interno della comunità scientifica, buona parte del mondo scientifico ritiene che ormai la sperimentazione sugli animali vada decisamente superata, anche per lo stesso tornaconto umano. Ancora attualità, un focolaio di influenza aviaria è stato riscontrato in un allevamento di tacchini a Casale Cremasco Vidolasco in provincia di Padova. L'allarme è scattato lo scorso 25 ottobre, quando una cinquantina di tacchini sono morti improvvisamente senza spiegazioni apparenti. All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Padova hanno rapidamente identificato la causa, il virus dell'aviaria. In seguito alla conferma, i servizi veterinari hanno disposto l'abbattimento di tutti i 60.000 tacchini presenti nel capannone colpito. Moltissimi di loro, forse la maggior parte, non hanno contratto l'influenza aviaria, ma sacrificarli, ucciderli, costa meno che non fare loro delle analisi per capire quali di loro sono malati e quali no. E in ogni caso, la loro fine sarebbe quella. Per noi l'antidoto alle epidemie aviarie è superare gli allevamenti. Anche per questo è importante sostenere AgriPunk. Una sentenza del 20 giugno ha decretato lo sfratto, con data 31 dicembre 2025, e il rilascio del podere dove sorge e opera AgriPunk, associazione nata per la riconversione di un ex allevamento intensivo di tacchine in rifugio antispecista per animali ex dal reddito nel territorio di Ambra, in provincia di Arezzo. AgriPunk chiede di firmare una petizione su change.org chiedendo soluzioni che permettano al rifugio di continuare a portare avanti il suo progetto di riconversione dell'ex allevamento, completando le opere di restauro e bonifica dell'area interessata e la prosecuzione delle attività socioculturali incluse nel progetto e nello statuto dell'associazione. Se, insomma, pensate che sia giusto tutelare questo spazio liberato, questo ex allevamento intensivo liberato, dovete cercare su change.org, sulla piattaforma, digitando "Siamo tutte AgriPunk". La petizione comparirà, potrete firmarla e ci auguriamo che AgriPunk possa continuare a portare avanti le sue interessantissime attività antispeciste. Il 27-28 settembre scorso, proprio presso il rifugio AgriPunk in provincia di Arezzo, si è svolto CRIC, Festival del Fumetto Antispecista. Sentiamo un resoconto. Il servizio è a cura di una inviata molto speciale, Carlotta Vacchelli. Ciao a tutti, mi chiamo Carlotta Vacchelli, sono docente, ricercatrice, curatrice specializzata in storia del fumetto, insegno alla NABA e alla The American University of Rome, corsi di storia dell'arte e storia del fumetto. CRIC, il primo festival di fumetti antispecisti che affrontano il tema del veganesimo in Italia, e si è tenuto a fine settembre, l'ultimo fine settimana di settembre, ad Agripunk in Arezzo. Il festival ha trattato una serie di problemi e di questioni che sono legate sia alla diffusione di questa prospettiva in Italia, non solo in posti dissidenti, e a come tutto questo viene rappresentato all'interno del fumetto. In effetti i fumetti sono un ottimo osservatorio per capire che cosa sta succedendo rispetto a questa tematica, perché i fumetti, facendo appunto ricerca sul campo, invitando autore e autrice autore a parlarne, ci si rende sempre più conto che questo tema è trasversale. Infatti tra gli ospiti c'erano sia fumettisti, fumettiste, autore, chiamiamoli diciamo underground, legati alle autoproduzioni, più legati a quel tipo di diffusione di materiali, che autori, autrici, autore, che invece sono affermati in altri modi di fare fumetti che non siano solamente legati appunto al do it yourself, ai festival underground e ai centri sociali. Attraverso i fumetti noi appunto possiamo vedere che la questione dell'antispecismo, la questione del veganesimo sono sempre più diffusi in termini di letture che magari hanno a che fare con stampa regolare, fumetti seriali, giornali e vignette, strisce, tavole pubblicate sui giornali. Questo è un po' quello che abbiamo capito guardando la questione attraverso la visione del fumetto. Agripunk è uno spazio che resiste, che ha una visione, in cui appunto si può portare avanti un pensiero di questo tipo, che permetta che un programma culturale ricco e articolato, come quello che è stato quello di CRIC, possa convergere con una tematica che invece ha un respiro etico, politico e anche con una presa diretta sul territorio. Un discorso importante però dal punto di vista della creatività, della cultura, dell'arte, e questo è quello che abbiamo fatto l'ultimo fine settimana di settembre, 27-28 settembre. Ci sono stati autori appunto da ogni parte d'Italia, ci sono stati incontri, mostre e anche appunto banchetti in cui gli autori hanno potuto dialogare con gli avventori, col pubblico. Nel mondo del fumetto, festival piccoli, non enormi, legati all'autoproduzione, agli spazi dissidenti, sono sempre più importanti, riscuotono sempre maggiore interesse, perché sono veramente le dimensioni in cui si può avere un rapporto più diretto, più personale, più intimo con chi crea. Per contro, invece, i festival grandi sono sempre più stressanti, è sempre meno possibile raggiungere questi obiettivi. Abbiamo avuto tanti ospiti, le mostre erano di Michael e Mirko e Clonsi, due autori appunto affermati nell'editoria regolare, Valerio Bindi, importante teorico critico, nonché artista fumettista, Bambi Kramer, soprattutto fumettista e illustratrice che lavora sia in Italia che con case editrici internazionali, Violino Viola, abbiamo presentato il suo volume, che anche per la stampa regolare. Le mostre appunto, una era un po' più pop, un po' più mainstream, ed era quella di Michael e Mirko e Clonsi, curata da loro, si chiama Gli Artisti del Cavolo e riunisce oltre 30 firme che spaziano dall'autoproduzione al fumetto seriale, importantissime nel fumetto di oggi. Invece la mostra di Valerio Bindi e Bambi Kramer si chiamava Elevator 24, era una riedizione di una mostra che era stata precedentemente organizzata nell'ambito di Crack Fumetti Dirompenti, che è il festival fumetto underground più importante in Europa e che riunisce una quantità di autori e all'interno del Forte Prenestino ogni ultimo fine settimana di giugno. Ci sono anche degli aspetti intrinseci al mezzo fumetto che permettono che il tema complesso del veganismo e dell'antispecismo venga trattato adeguatamente, in maniera efficace. Il fumetto è un intermedium che si basa sul funzionamento e sull'armonia di tanti altri media, no? È un mezzo che di base, di partenza, è ibrido. C'è il segno, c'è la parola, c'è il montaggio, ci sono target, mercati, interessi diversi a seconda proprio del tipo di fumetto che si pubblica. Se un fascicolo è una cosa, se un graphic novel è un'altra, se un seriale è un'altra ancora, se è in un quotidiano ancora un interesse diverso. Vuol dire, è un mezzo di espressione estremamente fluido che, partendo da una complessità di narrazione, una complessità di organizzazione estetica, è assolutamente indicato per trattare questioni di questo tipo. Infatti all'interno della tematica antispecista noi possiamo individuare dei generi. Per esempio c'è il genere del manuale, abbiamo visto autori e autrici che fanno manuali per spiegare che cos'è il veganesimo e che cosa sono il veganesimo e l'antispecismo. Abbiamo visto autori che invece raccontano delle narrazioni in cui l'animale non umano viene quasi antropomorfizzato e portato come esempio di resistenza, di liberazione. Altrove invece la visione è più di carattere grafico. Alcuni autori, per esempio, si appropriano della grafica relativa invece al commercio degli animali non umani e la trasferisce su altro tipo di entità. Con i fumetti si possono fare tante cose diverse e per questo, come mezzo, non solo diciamo di divulgazione, ma anche proprio di racconto, di creazione di mondi immaginari, efficace appunto nel problematizzare, nell'analizzare, semplicemente nel raccontare con gusto, in modo avvincente, che cos'è questo tema. Un capitolo molto molto delicato, un tema controverso da trattare con cura e da parte nostra, come nel nostro stile, anche con un po' di radicalità. Ci stiamo riferendo al tema dei cani guida, che vengono considerati un valore per le nostre comunità. Domani non potrà cambiare tutto, ma potremmo iniziare a mettere in discussione qualcuna delle nostre certezze, come quella della presunta innocuità dell'idea del cane utile. Amiamo i cani utili, ma è amore? Affrontano questo spinoso tema, a modo loro, gli autori e attivisti antispecisti Troglodita Tribe. cani guida, collaborazione o assoggettamento? Il 16 ottobre si celebra la Giornata Internazionale dei Cani Guida per Non Vedenti. In quell'occasione, quest'anno, una muta di cani guida sono stati portati a Montecitorio, di fronte al presidente della Camera, Attilio Fontana. Questo altisonante dispiegamento di forze ha voluto sottolineare a livello simbolico, grazie anche al discorso di un'alta carica dello Stato, la grande importanza che rivestono, la necessità di riconoscerne il valore per le nostre comunità. A prima vista pare proprio che l'iniziativa sia stata organizzata per i cani, in loro favore, eppure c'è qualcosa che lascia a dir poco perplessi. A tutti è capitato almeno una volta di incontrare uno di questi cani e chi è riuscito a guardarlo davvero, proprio in quanto cane, animale con una sua socialità che vive di odori, di abbai, di corse, di salti e di esplorazioni del territorio, avrà provato anche solo per un istante una sottile malinconia, una punta di malessere, perché al di là dell'apparato mediatico che li celebra come fidati e valorosi collaboratori, non serve essere esperti di comportamento animale per accorgersi che la loro vita è stata interrotta, rubata. In genere però quella sensazione dura poco, pochissimo, perché viene subito soffocata, cancellata proprio dalla loro abilità, dalla loro dedizione, dalla loro abnegazione, perché i cani guida sembrano la classica macchina perfetta. Guidano la persona non vedente, segnalano gli ostacoli, si fermano davanti al semaforo rosso, avvertono, ripartono, aspettano l'autobus. Ed è impressionante notare come l'idea del cane utile, del cane che lavora per noi e solo per noi, si è così radicata nel nostro immaginario da riuscire a cancellare il cane stesso, da farci credere normale, giusto, persino nobile, usarlo in questo modo. Però alcune considerazioni andrebbero fatte a proposito di questa presunta collaborazione. La prima e più evidente è che nella realtà dei fatti non c'è nessuna collaborazione. Ad alcuni di noi i cani guida sono utilissimi, è innegabile, ma loro, in cambio della disponibilità totale che devono fornire, non ricevono nulla, anzi, perdono tutto. La collaborazione è altra cosa, prevede uno scambio, prevede che gli interessi di entrambe le parti vengano reciprocamente soddisfatti. Raymond Coppinger, etologo, professore di scienze cognitive ed esperto del comportamento del cane, dopo aver osservato i cani d'assistenza e aver indagato sui metodi di addestramento utilizzati per ottenerli, ha scritto che si tratta di un caso eclatante di manipolazione eugenetica di un individuo che non prevede alcuna consapevolezza o motivazione da parte del cane in merito al servizio che è costretto a fornire. Nel suo libro Dogs, una nuova sorprendente chiave di lettura dell'origine, dell'evoluzione e del comportamento del cane, Aikiana Editore, svela che in realtà per questi addestramenti si verifica un altissimo tasso di fallimento che supera il 50%. Significa che 5 cani su 10 alla fine o anche all'inizio del lungo percorso che li attende vengono scartati, perché non è facile cancellarli del tutto e condizionarli in modo così pervasivo, perché resistono, rifiutano, si oppongono, perché non sono macchine, perché pretendono di restare dei cani. Ciò che colpisce poi sono i costi, altissimi, intorno ai 25.000 euro per addestrare un solo cane. E questi cani, va detto, vengono trattati secondo le leggi di mercato, le stesse che regolano qualsiasi altra merce. La domanda è alta, il tasso di fallimento pure, e allora? Semplice, si immettono altri cani nel circuito, si riparte, si tenta ancora, ancora e ancora, nessun ripensamento, nessuna riflessione sui metodi, nessun pensiero per i loro reali interessi, solo un ciclo che continua. E poi c'è un altro punto che non dovremmo mai dimenticare: questi cani, definiti spesso assistenti, eroi, collaboratori, considerati un supporto indispensabile per chi è in difficoltà, non scelgono di donarci la loro vita. Anche se nel guardarli proviamo gratitudine e affetto per ciò che fanno, non dovremmo mai scordare che siamo noi ad avergliela presa, quell'unica vita che avevano. Non hanno mai avuto scelta. Se l'avessero avuta, anche solo per un istante, difficilmente difficilmente sarebbero rimasti lì a disposizione come macchine, più probabilmente starebbero con i loro simili oppure liberi nei pressi di qualche insediamento umano capace di rispettarli, di dar vita a vere relazioni, come hanno sempre provato a fare sin dall'alba dei tempi e ancora oggi. Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Dedicata ai poveri cani guida devastati dagli addestramenti, una ricetta così profumata che anche ad occhi chiusi riuscirete a trovare il pianto. Per questo l'ho battezzata con uno slancio di creatività Frollini Profumatissimi. Gli ingredienti per circa 20 biscotti sono 250 g di farina, 25 g di fecola di patate, 15 g di farina di ceci, 150 g di burro vegetale, 75 g di zucchero a velo, un pizzico di sale, la scorza grattugiata di mezzo limone, mezzo cucchiaino di cannella in polvere, della vaniglia, un pizzico di noce moscata, 30 ml di acqua e 30 ml di sambuca o altro liquore o vino dolce. Lasciate ammorbidire il burro vegetale. In una ciotola unite tutte le polveri setacciate e lo zucchero a velo. Unite gli aromi e il pizzico di sale. Aggiungete il burro vegetale e iniziate a lavorare con una spatola o un cucchiaio, aggiungendo via via l'acqua e il liquore. Quando il tutto sarà ben amalgamato, lavorate con le mani impastando rapidamente su un piano infarinato. Lasciate riposare l'impasto una mezz'ora in frigorifero, quindi stendete la pasta ad uno spessore di circa un centimetro e ricavate dei biscotti con appositi stampi. Infornate a 180 gradi per 15 minuti. Lasciate raffreddare e servite. Potete usare lo stesso impasto con una pistola sparabiscotti, evitando il tempo di riposo. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana alla nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 824 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.